Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con me è Francesco Galante e abbiamo al telefono il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, saluto tutti gli ascoltatori. E allora, vogliamo un attimo con te trattare alcuni argomenti, dare uno sguardo insomma al nostro governo e alle cose che sta attuando, no? Per combattere la povertà il governo Renzi mette in discussione le pensioni di reversibilità. E quindi voi dell'Adico cosa state pensando? Beh, chiaramente Francesco, quando andiamo a dare un'occhiata a quello che fa il governo, i mal di pancia non finiscono mai di passarci. Questa volta di nuovo si parla di pensioni, perché ormai anche qui è una ruota: se non è sanità è cultura, se non è cultura è previdenza, se non è previdenza è ancora sanità, e di fatto qua si pagano sempre più tasse e si hanno sempre meno servizi. A parte le battute e l'introduzione, questa volta parliamo proprio di pensioni di reversibilità, perché in agenda del governo c'è proprio una rivisitazione di quelle che sono le pensioni di reversibilità. Certamente noi come Adico siamo nettamente contrari a tutto il provvedimento, ma è giusto dare informazioni ai cittadini che si sappiano insomma con quali legislatori hanno a che fare. Nello specifico, quali sarebbero le idee del governo? Allora, il governo ha deciso di mettere mani nell'immediato, diciamo, alle pensioni di reversibilità. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che le pensioni di reversibilità sono quelle pensioni che si hanno diritto per effetto di decesso di un coniuge, o in questo caso di una delle due coppie, insomma, che ora bisogna parlare anche di coppie di fatto. Ma al di là di questo, come funziona la pensione di reversibilità? Se una persona muore in base ai contributi versati o alla pensione che ha maturato, il superstite ne ha diritto in percentuale a seconda se ha figli a carico, ovvero l'80% se hai un figlio a carico, il 100% se hai più di due figli a carico, o il 60% se il superstite non ha figli a carico. Ricordiamo che questo diritto si ha anche sulla base di quelli che sono i requisiti maturati del defunto, e che permette a chi in questo caso pensiamo magari, non so, alla vedova che è nata superstite, di poter continuare a condurre una vita dignitosa sulla base di quello che insomma è la aspettanza perfetta, appunto, della reversibilità. E chiaramente qua il governo non gli va bene, ha trovato fuori la palla dei matrimoni lampo fatti da molti uomini con le badanti eccetera. Addirittura c'è una polemica che tanti sposano gli ultimi giorni di vita in cambio di un accordo stipulato precedentemente, ma sono fesserie che non c'entrano, che non possono giustificare un importante provvedimento a fronte di qualche sporadico caso che si potrebbe trattare in maniera diversa. Io ricordo che forse in qualche modo questa cosa delle badanti e dei matrimoni per prendere la reversibilità era già stato toccato, e mi sembra di ricordare che erano stati messi dei paletti in maniera che non ci fossero proprio degli accordi dell'ultimo momento, cioè le coppie dovevano aver vissuto almeno un periodo e via dicendo. Sì, io ritengo un discorso molto delicato e non so quale legislatore può avere la presunzione di affrontarlo, perché ci sono anche tante coppie che magari decidono di sposarsi proprio in punto di morte, proprio in quanto altrimenti non il coniuge ma il compagno magari non rispetterebbe nulla dopo aver vissuto decenni e magari avendo anche un figlio assieme. Ma ritengo che quando si debbano fare questi provvedimenti, penso che si dovrebbe vergognare chi li propone solamente per lo stipendio che percepisce e i benefici di cui gode, che prima diano loro esempio e poi insegnino a noi se una pensione di reversibilità, che sono pensioni misere in confronto a quelle che poi sono veramente le cifre di cui parliamo, veramente merita ad andare a canirsi su di nuovo una categoria sociale di persone deboli o certamente di basso profilo sociale. Ricordiamo come le pensioni di reversibilità invece hanno un importante significato, che permette appunto alla persona che resta in vita di poter continuare a sopravvivere in maniera decente. Il governo vuole invece con il provvedimento fissare dei paletti sui matrimoni lampo, vuole, ma questo è quello poi che è peggio, permettere che la pensione di reversibilità ne ha diritto solamente quando si raggiunge l'età, quindi se una persona muore a quando ha 50 anni, la vedova non so come potrà sopravvivere per 20 anni in un caso specifico, e addirittura vuole determinare l'importo dell'assegno sulla base del reddito ISEE. E come sempre, qua andiamo a colpire chi sia proprietario di casa, chi nella vita ha fatto dei sacrifici, per trovare sempre la scusa di non potergli dare niente o erogargli meno di quello che è previsto per diritto. Sì, anche perché poi nell'ISEE viene considerato il valore della casa. Metti che uno ha anche una bella casa, ma alla fine per sopravvivere dovrebbe vendersela e andarsene in affitto per poi tirare avanti la baracca magari, perché altrimenti non ce la farebbe. Ma sì, ma è quello che fondamentalmente questi legislatori vogliono convincerti a fare. Per questo dico, è una vergogna che a ragionare su questa cosa sia un governo che abbia un'area, diciamo, di provenienza sociale, che insomma dovrebbe trovare nel loro bacino elettorato i diritti da salvaguardare invece di andare a mettere in discussione. Ma è anche vero che bisognerebbe piantarla di colpire la sanità, la previdenza e la cultura, perché credo che sono tre pilastri importanti che dovrebbero invece essere mantenuti e salvaguardati. Purtroppo invece non è così. Ecco, a proposito di sanità, c'è anche questa notizia per cui i medici di base dovrebbero stare molto più attenti nel prescrivere gli esami, quelli particolari, no? Sì, anche qua questo governo ha pensato bene di colpire la prevenzione, quando la prevenzione invece diventa importantissima per sia risparmiare le spese, ma sia anche per salvaguardare la salute. Anche qua dimostra di non fregarsene niente e ha deciso di colpire i medici di base facendo pagare quelli che sono degli esami, ma facendo anche pagare, proprio nel vero senso della parola, i medici di base che a loro detta prescrivono degli esami inutili. Quindi se loro ti prescrivono un esame e non ti trovano un cancro, è giusto che il medico di base paghi. E anche qua mi auguro che chi abbia deciso questa cosa qua non si trovi indomani ad averne bisogno. Ecco, qua mi trattengo per non rischiare di scivolare in termini, certo, pesanti. È un po' arrabbiato il nostro Carlo Garofolini dell'Adico. Quindi cosa farà l'Adico? Starà attenta, seguirà in particolar modo queste vicende? Noi purtroppo possiamo solo fare informazione, questo lo facciamo anche te, continuiamo a denunciare quello che a nostro avviso sono dei provvedimenti ingiusti. Ci auguriamo che le persone, anche tramite noi, te con il tuo lavoro, riescano a unirsi alla nostra coscienza, di ribellarsi, però a un certo punto non è possibile che le persone abbiano la capacità di permettere di dimenticare tutto quello che accade e ricordarsi invece quando si arriva a votare di cosa andiamo a votare rispetto a chi, perché questi signori non possono continuare a fare la franca ogni volta con false promesse. Bene, grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.